Causa-effetto. Nella vita alcune cose si trovano allo stato naturale, mentre altre sono l'effetto risultante dalla combinazione di più elementi. L'oro, per esempio, si trova allo stato naturale, mentre il bronzo è una lega di metalli, i principali dei quali sono il rame e lo stagno. Questo aspetto del creato mi ha dato l'occasione di prendere coscienza di una realtà che mi era sempre sfuggita, anche se, a dire il vero, non è niente di particolare, come non era niente di nuovo che una mela cadesse per terra. Solo che in un giorno specifico qualcuno si è fermato a fare una riflessione e scoprì la legge di gravità. Così che nella vita ci siano elementi composti è una realtà quotidianamente manifesta ai nostri occhi, come una torta o un buon minestrone. Tutti elementi da noi lavorati perché potessero diventare tali. I singoli componenti formanti la torta erano allo stato naturale, come l'uovo o il latte, ma mescolati tra di loro e con altre sostanze, hanno prodotto la torta. Le torte non nascono sulle piante come la frutta, ma se ne vediamo una, subito sappiamo che ci è stata una causa ed un effetto. La causa è che qualcuno ha mescolato i prodotti naturali, l'effetto o il risultato è stata la torta. Perché queste riflessioni e precisazioni che potrebbero anche annoiare? Perché ad un tratto ho preso coscienza che lo stesso principio è valevole anche nel campo spirituale, cioè in quel settore incorporeo o invisibile al quale molti non danno valore, ma che è comunque la componente base che ci permette di vivere e di relazionarci con il prossimo e con Dio. Lo stato naturale della nostra esistenza è e dovrebbe essere la pace, la serenità, il benessere, l'armonia, oltre a tutte quelle qualità spirituali che compongono la vita comunitaria. Per cui, se non vi sono le virtù allo stato naturale, evidentemente sono nate delle cause che hanno prodotto degli effetti diversi e a volte indesiderati. Quando Gesù disse, riferendosi all'uomo, che ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi, Matteo 7,17 non affermò certamente nulla di nuovo dal punto di vista della causa e dell'effetto, la sua non fu altro se non la constatazione che vi è una legge anche nel campo spirituale: l'uomo buono produce ciò che è buono, l'uomo cattivo produce ciò che è cattivo. Così, ciò che è buono e ciò che è cattivo sono il risultato di una causa e non di una realtà spontanea e naturale. In quest'ottica prendo in esame alcune affermazioni bibliche in grado di parlare al nostro cuore e forse anche di farci rendere conto del perché di tante situazioni apparentemente prive di spiegazione. Se hai agito da folle cercando di innalzarti o se hai pensato del male, mettiti la mano sulla bocca, perché come chi agita la panna ne fa uscire il burro, chi sbatte il naso ne fa uscire il sangue, così chi spreme l'ira ne fa uscire contese. Proverbi 30.3, 2.33. Come notiamo, anche migliaia di anni fa appuravano il principio di causa-effetto, perché era ed è normale che, quando la panna viene agitata, produca il burro. Così, dice l'autore di questo proverbio, se ca è del burro. Non siamo davanti a un corpo allo stato naturale, ma sappi che è il risultato di un certo movimento. Se questo è vero per ciò che è in natura, dice sempre l'autore del proverbio, sappi che lo stesso principio è valevole anche nel campo spirituale. Se ti sei vantato o inorgoglito con il tuo atteggiamento, se sei stato malizioso, frena il tuo comportamento, prendi coscienza che hai sbagliato, perché una condotta del genere porta a compiere il male e l'ira, cioè tutto ciò che non tende all'armonia con il prossimo, produce contese. Quindi le contese meno i cui sinonimi sono contrasti, polemiche, litigi, dispute meno, sono il risultato o il prodotto di un pensare sbagliato, dell'orgoglio e dell'ira. Ci crediamo? Per quanto ho compreso, le persone non credono fino in fondo a questa verità e pensano nel profondo del loro intimo di fare del bene nonostante tutto. Fatto non certamente nuovo, perché anche al tempo degli apostoli Giacomo dovette chiedere ai credenti: chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti dove C è invidia e contesa, C è disordine e ogni cattiva azione. Giacomo 3.1.3.16. Come notiamo, passano i millenni, ma fondamentalmente l'uomo rimane sempre lo stesso. Al tempo degli apostoli c'erano uomini convinti di comportarsi bene nonostante producessero disordine e cattive azioni. La vera saggezza e la vera intelligenza non si misurano dalle parole ma dal comportamento. Chi di noi giudica le cose della vita in questo modo? Vi sono altri due proverbi che mettono in evidenza il risultato delle nostre azioni. Proverbi 26:28. La lingua bugiarda odia quelli che ha ferito, e la bocca adulatrice produce rovina. Proverbi 10:31. La bocca del giusto produce sapienza, ma la lingua perversa sarà troncata. Se è vero che la persona giusta, cioè quella che ha un retto comportamento, produce, cioè comunica, dona o fornisce sapienza, è altresì vero che chi è bugiardo odia, cioè non fa del bene a chi si rivolge. E chi lusinga il prossimo non dicendo il vero in questo ci ammonisce riguardo a quanto sia importante essere sempre leali e onesti, quanto sia importante non nutrire sentimenti negativi, perché il male prodotto dal nostro cattivo comportamento non è venuto dal nulla. Quando ci troviamo in mezzo a disarmonia, divisioni, litigi, non possiamo far finta di niente come se tutto fosse normale, perché di normale non ci è nulla in queste situazioni, dato che sono il risultato di una causa, perciò è bene. È saggio indagare prima sul proprio comportamento per arrivare in seguito a capire la provenienza dei risultati negativi ai quali assistiamo. È molto probabile che siano dovuti a un fraintendimento, ad una supposizione sbagliata, un modo errato di presentare le cose, a qualche parola detta di troppo o a una mancanza di tatto, per cui riconoscendo e troncando questi comportamenti si possono ripristinare i rapporti giusti di prima. La parola di Dio non ci insegna a comportarci bene solo per il fatto che questo è giusto, ma perché un comportamento corretto produce del benessere al prossimo e a noi stessi. Se la bocca del giusto produce sapienza, allora che la società sia composta di giusti è decisamente più importante del cercare di stabilire delle leggi che limitano il male, perché il male è meno. Come fece notare Gesù, viene dai malvagi. Infatti Gesù disse: ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Matteo 7.1.7.18. Un albero buono non è solo quello che è andato sano, ma anche quello che si è mantenuto sano. Perciò coloro che hanno ricevuto una nuova nascita mediante lo Spirito Santo devono preoccuparsi di non subire l'influenza della corruzione di questo mondo che non conosce Gesù Cristo. Questo pericolo è messo in evidenza dagli apostoli nelle loro lettere. Quando con grande ardore imploravano i primi cristiani ad abbandonare le voglie della carne e dei pensieri. Efesini 2.3. Sarebbe un errore considerare solo cose negative prodotte da comportamenti malvagi, perché la Scrittura mette in evidenza anche tante cose belle. Sempre in relazione ai pensieri umani, Paolo parla di una causa ed un effetto. La mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. Romani 8:6. Dunque, come i nostri pensieri, controllati da una natura corrotta, producono morte, cioè divisioni, le nostre riflessioni controllate dallo Spirito di Dio producono armonia e pace. Potremmo anche essere scettici in merito a quello che dice la parola di Dio, ma come esiste una legge di causa-effetto nel male, esiste pure la legge della causa-effetto nel bene. Pensare bene, ragionare sano, produce del bene. A volte la società cerca di inventare tanti metodi per insegnare ai giovani e meno giovani un comportamento corretto. Ma chi può farlo più della parola di Dio? Perché la Bibbia dalla maggioranza è ritenuta un libro obsoleto, cioè vecchio non più attuale? Chi è che può farsi avanti e alzare la mano per dire che i comandamenti di Dio dati circa 4.000 anni fa non sono più validi né utili oggi? Qualcuno forse ha l'ardire di farlo, ma non si tratterà d'altri se non di chi vuole essere libero di fare il male che gli pare, di colui che ha bandito l'onestà e la coerenza. Chi rifiuta la Bibbia come autorità non rifiuta un libro, ma Dio stesso. Infine il credente tiene presente altre due virtù che non si trovano allo stato naturale, ma sono il prodotto dell'afflizione. Romani 5.4 maci. Ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Giacomo 1, 3 mecek. Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Dunque, la pazienza e la costanza sono due virtù che risultano dal giusto atteggiamento mantenuto dal credente nei confronti della sofferenza e, dato che tutti soffriamo in molti modi e in molte maniere, va da sé che chi non ha pazienza e neppure costanza nel vivere per Cristo abbia un rapporto sbagliato nei confronti delle difficoltà della vita. Queste riflessioni servono perché ognuno faccia un esame di se stesso e non degli altri. Se non sei equipaggiato di pazienza, di costanza, di pace, di sapienza, di zelo e di tutto ciò che ti serve per vivere da cristiano, non incolpare Dio o il prossimo, perché queste virtù cristiane non nascono spontanee come la zizzania o le erbacce, ma sono l'effetto di una causa. Trovata la causa o l'origine di tali virtù, non ti resta che andare alla fonte con il desiderio di morire a te stesso. Perché, come disse Gesù, se il grano di frumento caduto a terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Giovanni 12.24. Dicembre 2009. Ellero.